Le stelle fanno scuola di silenzio. Di ascolto poi di lunghe osservazioni. Ci mettono in profonda relazione. Di elementi tuonano reazioni nucleari, supernove esplodono, l'origine del mondo. Ci pensi mai? See.